Poi nel pomeriggio le sagre assumono un aspetto diverso, con la degustazione dei saporosi frutti della terra friulana, tra cui primeggia il buon vino che ha scintillii di sole. E si canta, si suona, si balla all'aperto, nella fiducia di dimenticare il caldo e nella certezza di servire il Signore in letizia. Il giovane poeta friulano Aurelio Cantoni, uno dei migliori di risultive, vi fa sentire un suo componimento ispirato appunto alle sagre del Friuli. In esso egli dice che Gesù va coi poveri in osteria perché egli ama i semplici, coloro che in un pezzo di pane e un bicchier di vino assaporano tutta la dolcezza della vita. Ienfri li sfuis dal pol, il cil s'inchioche, in queste di disagre casclopin lissigadis da iucei. Si viot che Gesù Cristo gli sarà d'eglesie, al venerà con nota all'ostarie, che lui al va con chei che urbaste un toc di pan e un tai di vin par diol di tutti il vivi. Allora, o chiantarin, e il fum des pipis si evarà lanzu come l'incens, tra l'usignà d'estazis e il son surà di voce di chiadreis, finché i standards immens de procession aiemplaran la strade. Allora Gesù Crist, come unedì, al disarà per aulis, intant che tutti il cil alzarà lì. Sagre, tutte le agostane in Friuli, di squisito sapor locale e di raccolta intimità, quando i paesi s'addobbano con striscioni di anelli di carta colorata e ospiti di riguardo sono gli amici delle frazioni vicine, cui si offre il dolce tradizionale e il bicchiere dell'amicizia. e in compagnia dei quali si indugia fino a sera, quando la musica già comincia a conciliare il sonno. Poi, quando ormai un filo di brezza dà sussurri alle fronde degli alberi e nell'aria trema il primo presagio della notte, ecco dondolare di nuovo la voce delle campane. Esse annunciano ora che la sagra è finita, invitano tutti al riposo perché le membra siano pronte domani al lavoro che le attende. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 58esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e adattamento di Ermete Pelizzari e Dino Menichini. Orchestrina popolare diretta dal maestro Sebastianutto. Hanno collaborato Mila Modesto all'organo e il poeta Lelo Cantoni. Musiche di Böllmann e di Zipoli. Motivi popolari.